E non cantare tu, ni tu ciacherai, se non t'abbatti fieno, ti metto paglia. E non cantare tu, ni gatta bragata, e va prendati di cotto che è preparato. Ti tengo come pietra le carcagni, come li zanghi da mezzo la via. E vado tinta tuni, tinta codara, e mi diti mancamento a una bandera. Va tinta su bamara e su bascoglia e fatti la lavata ma culessia. Pon capulanno veni e se ti voglio amare la Pasqua e ma ti piglia. Si boma ti mariti e bagagliato all'ustadra ti dentro un piderico da cenno giucciareggio e scronticato si boma ti rupigi e per marito si boma ti mariti e curruvelu e batigliati in un sacco de marinaro.